nge na banzi kini e komi delikambo mato salinga nini e sokyo lingi e lobelanga mote ma pasi e diye na banzi mato moye na sala nini e diye mato kawayo mobali e Kotambola moke na banzi kini e komi delikambo mato salinga nini e sokyo lingi e lobelanga motema pasi e diye na banzi mato moye na sala nini e diye mato kawayo mobali Kotambola moke na banzi kini e komi delikambo mato salinga nini e sokyo lingi e lobelanga motema pasi e diye na banzi mato moye na sala nini e diye mato kawayo mobali mato mama mina kupenda mama miye nita kufata kufa bure na mapendo osikie wepenzi wangu nikwambie mwana uma napata tabu juu ya mawazo Sema nikumbuke nitakufa Fata